intelligenza. Storie vissute, storie vecchie, vecchi visti, chiamale come vuoi, ma è così. Sì, è stato sempre così. È stato sempre così, capito? Fatemi vedere che è tutto risolto, tutto a posto, qui e là, e poi come sono terminati i lavori te lo mettono dietro. Lo sai cosa c'è da considerare? Che è una cosa sola, bisogna ragionare in questo modo. Guarda, 30 anni fa hanno fatto il primo secondo gruppo, no? Per capirci. Poi, dopo questo gruppo ci sarà altri 15 anni, funziona per farti capire, no? Primo e secondo gruppo, poi hanno fatto il terzo e il quarto, quindi questo primo e secondo muore, il terzo e il quarto, capisci? E sta funzionando, dovrebbe fare il quinto, per fare il proseguo delle cose, perché tra 10-15 anni muore questo o muore tutto, non c'è più nulla, mi capisci perché c'è bisogno che facciano il quinto gruppo, solo per questo motivo qua. Se dovesse finire di lavorare anche questo gruppo, terzo e quarto, poi cosa si fa? Non c'è più niente, capisci? Manca totalmente tutto il lavoro. Ecco dove sta il problema grosso, capisci? Non c'è proseguo, non c'è continuità. Questa azienda, cioè, in che cosa hai investito praticamente? Cosa sei giunti a fare lì? All'accamo, a fare schifo. Ultimamente a fare schifo, perché quando hanno comprato c'erano tutti i vincoli possibili, no? Sai, che quando compri com'è, poi c'era da costruire, tutto a posto, sai, tutte, invece poi ricordo ci sono, non c'è più, non si fa più, non c'è, si sono rimangiati tutto quello che era possibile mangiare, rimangiarsi, capisci? Infatti per me la regione Sardegna dovrebbe indennizzarsi e crearli, cioè, le sanzioni che hai comprato con certo. Negli anni sono stati impegnati regione, provincia, comuni, cioè è stato fatto un sacco di cose. E tu vieni qua, compri tutto, dici no, non mi interessa più. E allora capisci, bisogna scemizzarli come diciamo noi. Perché tu hai, non tu, ma comunque è stato mosso tutto, no? Nel senso comuni, c'è un sacco di lavoro per le licenze, per tutto. Io qui li avrei fatti pagare. Le sanzioni ogni giorno, ogni anno che ritardi a iniziare il gruppo l'avrei sanzionato. Ma perché io mi ricordo quando c'era l'Endesa, c'era già il programma la costruzione del quinto gruppo. Poi non so cosa sia successo, quando è subentrata questa E.ON, le cose sono cambiate, perché ce l'ho detto lui, ma anche quando ero autorità non l'avevano detto. Quindi insomma, l'investimento che hanno fatto credo che sia una grandissima stronzata questi. Vabbè, caro, mi stanno chiamando, aspetta, tanto qui me ne vado a mangiare. E vabbè, io ne parliamo più tardi. E vabbè, mi sentiamo dopo, io sono qua. Siamo qui, no, era, mi hanno portato una cosa e me l'hanno portato adesso. Ah, ciao. Vabbè, dai, tanto mi hanno mangiato, da lì ci sentiamo dopo. Sì. Ma questi ragionano per le loro tasche, capito? Questi purtroppo ragionano per le loro tasche, perché se avessero ragionato diversamente, io penso e credo che l'investimento si poteva fare ed era anche redditizio secondo me, ma se loro sono venuti lì per guadagnare solo loro e non vuole far guadagnare gli altri, è chiaro che il discorso cambia. Redditizio è redditizio, non so quanto abbiano guadagnato quest'anno, poi 120 milioni di euro, non è che non hanno guadagnato, no? Ma per loro guadagni e portano via su, capisci? E stanno costruendo le altre parti. Vabbè, comunque, passiamo a perdere, va. Vabbè, guarda che mi stacco e me ne vado su, mi devo anche lavare e poi, no? A me se sei, ragazzi, ci sentiamo anche domani, ci organizziamo domenica mattina, ragazzi, andiamo per giù un drink lì a Brutta, a qualche terra, dalle tre parti, vabbè, ci sentiamo, da, così concludiamo. Io non aggiungo a grande, sono un po' stanco, ma senza far nulla, senza esagerare, però mi stacca di più. Sì, sono anche della sorella. sentiamo, poi in caccia il mio lì da te, non c'è più il campo domenica, sono libero e vuol dire al volo, sarei sceso domani ma non so che ora termino, provaci anche se termino questo, ti chiamo, non so, vabbè, ma ci vediamo sicuramente domenica. Vai a mangiare, vai, tanto mi vado a mangiare anch'io e poi ci sentiamo, vai, ci facciamo due chiacchiere. Ecco, bravo. Buon appetito. Ciao Sandro, buon appetito anche a te. Sì, vado a mangiare e poi ci sentiamo, vai. Buona serata a tutti. Attenzione sul diverso. Per tardi. C'è un'attenzione su 10, mi sembra, te lo dico, se li prendi io torno a mangiare a me. Guarda se rimane Sandro 10 minuti e poi ci sentiamo. Ciao a tutti, buona cena, li prendi a me. Via, appetito e buona serie a tutti. Attento Sandro se mi copieggi. K di positivo e poi rosso che ti copieggio. Avanti. Buonasera, Sa. Volevo chiedere un'informazione, scusami ma fancuffia, ho fatto una domanda per SWL, mi è arrivato un foglio, c'è qua, c'è così, oggi è stato fatto di solo ascolto delle gambe di frequenza radioamatoriali SWL, integrazione, poi dice così, ad integrazione della dichiarazione prevenuta in data 3, si invita a voler inviare urgentemente la fotocopia del documento di identità in corso di verità come proibito dalla legge e basta, e voglio una carta di identità, però nel documento che ho spedito non ne richiedeva e poi c'è nel foglio un adesivo trasparente, però attaccato a questo foglio registro ufficiale protocollo per la riparata. Però qui non c'è il codice, sicuramente me lo dovranno dare, giusto? Il non SWL, non gli danno un nominativo. Guarda, mi prendi la sovrista, perché non in questo momento dovrei andare a cercare tra papiri e papiri, andare a cercare un attimino, quindi mi prendi un attimino sulla sprovvista. Ascolta una cosa, ma tu hai fatto una dichiarazione diciamo come richiesta a Cagliari? Sì, avevo una fotocopia che ho richiesto alle poste a Sassari, non l'ho compilata e l'ho spedita il 3 e mi è arrivata oggi e dice così. Vabbè, c'è il TIB, il Ministero dello Sviluppo Economico, poi Protoprot, sono 2-2-CSH, oggetto attestato di solo ascolto delle gambe di frequenze radioamatoriali, SWL, poi c'è integrazione, l'integrazione della dichiarazione è pervenuta in data. Si invita a voler inviare urgentemente la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, preso sempre il decreto del Presidente della Repubblica, si mette a disposizione qualsiasi eventuale chiarimenti sul numero di telefono, però io così è, per sentito dire, per non aver capito male, cioè ci dovrebbero dargli un codice quando uno fa una domanda, qui siccome il codice non c'è, dovrebbe avere un nominativo sicuramente, e qui non c'è in questo foglio, sicuramente non l'avranno, penso, quando avrò spedito la fotocopia dal documento di identità. Sandro? Sandro? Non c'è Sandro. Battimento dal canale 12. Ah, non c'è problema. Niente Antonio, lo ripeto, mi prendi un attimino la sprovvista. Niente, attiniti a quello che ti hanno mandato. Questo volevo dire, ma di regola diciamo quando uno fa questa richiesta, diciamo nell'ufficio proprio ti danno l'attestato, di regola non c'hai diciamo un tuo nominativo, o sbaglio? Di quale nominativo stai parlando, Antonio? c'è una sigla, cosa c'è scritto? C'è un numero. Aspetta, un numero. Sigla qui. Cioè, signora, in questo foglio c'è un adesivo trasparente scritto, stampato in nero. Ministero dell'Industria Economico, Comunicazione, Ispettorato Sardegna, registro ufficiale, sicuramente protocollo numero 000212623 050412, uscita. E poi in altri codici non ce ne sono altri. E poi c'è un codice a barre. È un codice a barre, basta. È un codice, esatto, un codice, e c'è scritto barra CA, dove c'è scritto barra CA, quello lì è il tuo numero di concessione di SWL, non di SWL, non possono darti nominati voi come c'ho io, perché quello è un attestato, non è una patente, hai capito? È una licenza per il ricevitore, e dovrebbe esserci barra CA, dove tu leggi un numero, c'è scritto barra CA, quello lì è il numero. È claro, però barra ciano non c'è scritto da nessuna parte, come stai dicendo tu, una barra poi la C e la A, no, sì, non ce n'è, e dove l'hai detto? No, vabbè, perché altrimenti non te l'hanno mandata, la devo vedere, se no non te l'hanno mandata, sono in attesa del tuo documento, se ti si mancava qualche documento, come tu le mandi il documento, allora ti mandano. La lettera di protocollo che non hanno ricevuto la tua domanda. Ecco, però quando io ho spedito mamma mia, quando io ho spedito la documentazione non richiedevano un documento di riconoscimento, non c'era scritto nulla, io ho compilato questo foglio, ma carabolle è spedito, tutto lì, non c'era nient'altro. Ti continuano sempre a Cagliari a dimenticarsi delle cose, ma sai quante volte a noi ci mandano delle comunicazioni, poi ci riscrivono che manca una marca lavoro, manca un documento, capito, valido, eccetera, eccetera, è un ufficio di merda, va lascia perdere. Comunque, tu adesso mandami la carta d'identità, la fotocopia, sicuramente, con quello che ti hanno chiesto, capito? E vedi un po' in quanto tempo ti mandano l'attestato, prima l'attestato praticamente non è come quello che ho io di vecchia era che un cartoncino con dietro tutte le frequenze, quello è un foglio bianco dove ti rilasciano, ti dicono appunto che puoi avere questa cosa qua, basta. Però nel mio ad esempio c'è scritto SWL numero 821 barra CA Cagliari, ma è dell'83, capito? È dell'83. Quindi adesso gliela fate diverse. Però mi sembra strano, mi sembra molto strano che non te l'abbiamo convalidata subito. Perché allora in questo foglio, dopo c'è scritto in alto a sinistra, Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per Comunicazioni, Ispettorato Territoriale della Sardegna, questo è giustamente in nero, sotto c'è questo adesivo, un adesivo trasparente con la scritta, un codice a barre, poi il numero di protocollo. È uscita qua è 5412. Guarda, a noi gli è arrivata il 030412. Oggi quanto ne abbiamo? 5 ne abbiamo, giusto? Se non sbaglio. O se comunque Cagliari 50412, ma l'hanno spedita. E non dice altro, poi c'è sotto oggetto, due punti, attestato di solo ascolto sulle frequenze, sulla gamma di frequenze radioamatoriali e sullo PVL. Poi dice integrazione, punto, e richiedono questo documento di identità in corso di validità. E basta, poi si aprisce, si resta a disposizione per qualsiasi eventuali chiarimenti, e c'è il numero di telefono, non c'è altro. Sicuramente mancherà la patente per mandarmi, ma la patente della carta d'identità per mandarmi, diciamo, l'autorizzazione vera e propria, sicuramente, o penso che sia così. Guarda, non credo, ti ripeto, io quel foglio lo conosco, adesso se tu rimani in ascolto, quando rientra Gianni, e lui c'ha quello lì, io c'ho quello vecchio, provi a chiedere a lui, perché se l'oggetto dice che quello è un attestato di SWP, professore, in attesa che tu mandi l'integrazione per poi mandarti l'attestato vero e proprio, capito? Comunque, quando hai 3 anni chiederà a lui, sicuramente ti sarà dare notizie più certe, perché io adesso non ce l'ho presente come è fatta quella lì, capito? Antonio, dammi 10 minuti che vado a mangiare e poi riprendo, ok? Grazie, ringrazio. usando l'altro apparecchio, lo fa proprio un altro apparecchio che poco fa che c'era per collezione, insomma, ma lo usavo proprio il GPGP. Come ti arrivo io come segnale? E quasi 8 mi arrivi qui col satellite. Molto prepotente, buonissima Ginna, contraccambio e controllo di Atonorba. Una radio di 5 radio di salito. Ok, va benissimo, l'importante è ascoltarci, ma se il nuovo di Atonorba ce n'è da poco Ginna. Sera. No, quindi c'era poco che abiti a Bonorba. Ok, perfetto, avevi una schioppettata lì, intanto so che ti usano il 48, come detto l'altra sera, è molto bello, apprezzabilissimo e niente, ti devo dare 10 all'apparato, ti devo dare, quello che fa l'apparato. Modificato però si fa sentire, sì. No, solo che non so. Sì, ma una palla grande, anche Claudio la Tassani aveva uno identico, stavate facendo le prove, diciamo, vanno bene, vanno anche più che bene vanno. Hai capito? Ma avevo visto già qualcosa da prima in un altro, c'era anche un altro CP in macchina, confermi che il tuo c'era la calamita, quello lì, no? E così io guardo la calamita. Questo c'ha 40 watt, doppio modulatore, eco e ricordo, questo qua. Sì, sì, sì. Ok, no, molto bello, si immagino come capitino appunto l'Aran 48, il primo tipo dell'Aran 48 che l'ho dato via. Ma non lo so, come anche le modifiche, come avete spiegato voi, so come va. E io ho tantissimi apparati, sono vecchio anche io, ho 40 anni che... E più che altro ho tutti i vecchi apparati, non tutti, però la maggior parte degli apparati degli anni 70 ce li ho tutti. Io ho mai capito, però apprezzo anche quando gli altri hanno una buona passione. Ecco. Adesso è aumentato la popolazione, vedi? Ecco. Avanti, buonasera. Ciao Capri 2, provando una radio, se mi dai un controllino, ciao Gennaro, se mi senti. Fabrizio, buonasera, salutoni, qui Gianni Capri 2, compagnia di Gennaro da Barolla, qui mi stiamo arrivando quasi nove, Capri, se rimetto il cambio e poi proverai a chiamare Gennaro. Già va bene, allora dai, perché avevo un problema, ho riparato questo baracchino e non avevo rivato, e stava andando bene, però... praticamente ho fatto un collegamento con Alghero e mi sentivo in mezzo al QRM, mi sembra strano perché anche con 5 watt arrivo lì, infatti controllando stavo uscendo, alla fine sto baracchino, minchia, stavo uscendo benissimo da tutte le parti, ma stavo uscendo con 101 milliwatt, vedi tu, un decimo di watt, sono riuscito ad arrivare male ma ad Alghero, ed era quella, su 5 watt e tondi, dai. Va benissimo qua, non so, Gennaro, ascolti a Fabrizio da Sassari. Ok, ma Claudio c'è per caso? Attenzione Claudio. Sono entrato. Gianni, come mi ascolti adesso? Bene, Fabri. Ma lo sai con quanti volte stavo uscendo fa, quando Alghero mi sentiva pio. Di un po' secondo te. Che ti ho sentito, va. Ti ho sentito che stavo uscendo con milliwatt, non con watt. Con 10 milliwatt cosa hai detto? Non me lo ricordo, però già ti ho sentito. Lo so. E che cosa era? Ha una resistenza, 100 milliwatt stavo uscendo, quindi un decimo di watt, infatti ho detto che strano. Ero arrivato ad Alghero, sentivo in mezzo al correme, con un baracchino ci arrivavo, ecco, quindi anche troppo, un decimo di watt stavo uscendo. E adesso era una resistenza, quindi adesso voglio provare a cambiare proprio sul pilotaggio. Adesso già vorrei provare a lanciarlo di qualche cosa di più, adesso vediamo. Hai provato la modifica? Adesso ho rimesso tutto perché l'altro che è successo, l'ho tolto lì, ho messo, adesso ho trovato il problema, adesso è giusto, 5 watt tondi, se c'era Alghero mi avrebbe fatto piacere vedere un attimino come arrivavo con questo baracchino. La radio ti sembra che abbia migliorato? Sì, è più forte. Era quello, capito, c'era qualche problemino, una resistenza, quindi avevo un'attenzione sbagliata al prefinale. Però poi il finale già glielo cambierei allo stesso a vedere. Ma avevi già cambiato il finale? No, il finale sì, il prefinale volevo fare un altro, però credo che dovrei essere a buon punto, però dai, diciamo che volevo fare sì, il finale sì, il prefinale aveva una resistenza e quindi non me lo pilotava bene. E ho detto, era un finale preparato, lo chiamo, un ECOM preparato che non andava. Non passate a risolvere tutto. Scoprire. E già andare, dai, riprendi tu e fai girare. Pagappa. Tanti, Gennaro, con la buonasera. Gennaro, lo senti a Gianni? Avanti chi chiama Gennaro, avanti cambio. Ehi, ciao Gennaro, con la buonasera. Buonasera anche a te, amico, buonasera, ben ascoltato. È la stazione doppio rum che ti supercordializza, Avanti Capri 2. Ho già modulato con Gennaro, ci siamo scambiati i controllini, un apparecchio veramente che apprezzo molto, io lo so geologico, c'è una bella stazione, sono più contento del mondo. Capita quello, Massimiliano Pompolver, mi sembra che ho avuto proprio a lui con l'apparecchio, non è che me lo sto comprando, però è bello perché fa la modulazione, c'è gli avanza anche per darne agli altri. Fabri, riprendi, ti metto il cambio. Diciamo io, lui adesso, se io alzo un po' i marchi, come mi senti, vedi? Provo a vedere, ma già alzati li hai? Sta sempre oscillando avanti e indietro, però forse perché c'è una modulazione bella, cioè potente e mi piace. Già, colore lecito. Già va bene, è un bel apparecchio. È perfetta, Gennaro, perfetta. Guarda, la sgarra una pillola, mi piace, perfettissima. Sì, io ne ho avuto una, l'ho dato, ma ce l'ha, me l'ha fatto fare alla altro 600 e ho già 300 a casa, non c'è qualche pescheria, ma non è come quello che ho detto a bulldozer, proprio il primo era originale, da due o tre volte l'avevo acceso. E poi la posso da una parte, è venuto, ma lo dai, ero così, poi mi ha compito la durata sempre già, con i 23 canali, hai capito? Ma ce l'avevo comprato una volta la Torino, la TBC, perché ce l'avevano i camionisti, ecco, non ho lavorato la Butangasco, l'impresa, ho visto per Dio, non lo compro, ma pure la Tobia. Ok, tutto lì. E che dimmi chi ha parlato verso a Toto, scusa Gennaro, chi ha parlato verso a Toto, Fabrizio? Diciamo, questa radio Fabrizio non so, fa anche delle modifiche, non so, però non, io non lo conosco in verticale, capito? Ma non so se poi tu ti posso dare il numero di telefono della testa, vai, perché a me mi conoscono bene, capito? No, abbiamo frainteso, non mi interessa a me, diciamo, abbiamo frainteso, Gennaro, stavo facendo una domanda all'amico Gianni Dupiuru, siccome c'era Fabrizio in frequenza, che stava mettendo a posto un baracchino, stavo chiedendo a Dupiuru che baracchino ha messo a posto Fabrizio. Un baracchino anni 70, 80, un Inter che mi pare che sia, un Inter. Sì, no, però stavo parlando, stavo dicendo, quando stai fermo, che stavo parlando di una resistenza, no, tu lì giusto, però poi arriva bene, arriva, arriva bene, no, per quanto riguarda Gennaro, non ho intenzione di acquistare più niente, perché ne ho di... è capito anche lì, è perché no, non li voglio rovinare, se no ce l'avrei messi proprio... anche in garage, dopo, basta uno che ci abbia il canale 10, e con il tuo scartato, c'è una pettinetta, ce li ho collezionati dentro, giusto, quando li vedo saranno più felice del mondo. Ok, ti rimando già, vai per il Gennaro di nuovo, chiacchierò un po' con Gennaro. Maria Gennaro, devi capire che KP2 è un po' legna verde, non gli piace spendere, capito? Capito, dici all'amico se ci interessa, c'è un P40, se ci interessa, se ti interessa dimmelo. Io ce l'ho così come il tuo l'apparecchio, capito, con la camera ecco, bip, eccetera eccetera. Attenzione, amico di Sassari che parlavo, se ti interessava un Nikon, LB40, come si chiama? Nikon, così hai detto, Gennaro. Sì, Nikon, LB40, non mi ricordo come si chiama, è molto buono. Io c'ho questo, diciamo, che sono usato in Midland, da come padre, ne ho un Gennaro apparati. Midland? In questo momento non ho altro, mi sarebbe piaciuto avere quel 48, però adesso lasciate sì, un pochettino, diciamo, di play, ho avuto un sacco di spese da poco già, e non lo vengo, mi piace averlo, dai, me l'avete fatto confessare, mi piace averlo, ma non c'ho proprio questa fretta, però mi piacerebbe averlo anche io, mi prendi già. Ho comprato il mio, 400 euro tra solano. E a prezzo di apparecchio da Radio Amatore, Gaie. Gaie, quanto credi che lo paghi? Se lo paghi 500 euro con un apparecchio così. Quanto l'hai pagato per curiosità, Gennaro, con l'apparecchio? No. Dimmi. Ho detto, quanto l'hai pagato con l'apparecchio? Questo, mi credi, mi costa 600 euro quasi. Hai sentito, capito? Sì, lo so, io l'avevo pagato già. All'epoca ho un sacco di soldi, era l'originale, tutto, sembra costava Allora, può avere in lire più di 200.000 lire ce l'avevo pagato all'epoca. Quindi sono passati più di 18 anni fa e questa roba. E quindi adesso in euro se vai a comprarlo non lo paghi, capito, poi le modifiche, la correlata, la serizzale già. Ah, io l'ho detto d'accordo, a prezzo tutti l'apparecchio di radioamatore, però se Claudio ce l'ha, che l'ha pagato così, vuol dire che il baracchino vale quella cifra lì. Ma ne ho già, ne ho tantissimi, anzi, ne lascerò proprio uno, gli altri li metterò, non so così già, ogni tanto li devo fare pure per accendersi, perché ho paura che poi non funzionino più, hai capito? Infatti faccio l'HF, stasera stavo ascoltando un po', poi mi sono dovuto uscire, e mi ascolto un po' nelle palle quando ci sono i conti, tutte queste cose qui, e poi sono uscito, adesso sono quello cenato, sono salito qui. E tanto ti sei affacciato tu, no se li vale tranquillamente, se pensi solo che un microfono possa costare più di 100 euro secondo che microfono si installa, o se li vale alla grande, riprendi se no. Il microfono si mette normale in quegli apparecchi. Dici anche al tuo amico se lui va della Delta Light sulla banda non ha contrastito. Non compro più niente in questo periodo, io già ne sa che la faccio, sono già le sgoccioli e a giugno termino il mio mandato di capitolo e iniziano le tasse, cose e niente, se me l'avevi detto magari nel periodo prima di Natale l'avrei potuto anche, però adesso è negativo già, manco neanche una spilla compro più per proprio roba di modulare, già ce l'ho, mi basta e avanza questo è già. A parte quanto ce l'hai? Ho capito che no. Penso che ti anche qualche apparato. Ripetimi, aspetta che c'ho appena di quel reme, e cosa mi ha detto già, tu quelli di me che venivano appunti. Se non vendi qualche apparato adesso. No, di questi che c'ho, non vedo tutti collezionati, e manco uno, quando muoio io tutto lo grave, ti ho detto che i miei figli non interessano, non è negativo, e me li tengo su questi che c'ho, e veramente non ne ho mai venduti apparati, ho sempre comprato giornale. Venduto, comprato, rivenduto, ricomprato. E che vuoi fare delle giri, che fai? Li tengo giornale per collezione, sono tutti apparecchi degli anni 70, in più Gianni già lo sa, recenti, cosa c'ho? Dalla 78 plus c'ho recenti, e questo mi dirà anche tu usando adesso, e poi gli altri sono tutti apparecchi di vecchia generazione. C'ero in macchina il 78 gennaio, ma il 78 più, quello lì lo metto in macchina, ce l'ho in macchina, sì che lo sto usando. Detto se lo vendo. Che tu mi dava? Capito. Mica è napoletano, non lo capisce il sacco. Quanto mi dai il gennaio che te lo prendo? Diciamo, volevo capire se tu lo vendi il 78. Gennaio ha detto che lo vende, quanto le dai? Io vorrei comprare un 68, dicono che fanno bene questi 68. Tu puoi passare per Roma? E già passo, ci passo spesso io. Se capito il dono vengo a trovarti, quando c'è un cugino lì che abita a Cosuine, abita, e quando vado lì vengo a trovarti, Gennà. Dicato questo 68 è normale. Ma come lo vorresti? Ma non so. Modificato. Che canali, fa non so quanti canali fa, però io lo uso solo su un macchina su 5. Capito. Perché io a casa qua c'ho un altro modificato, 10 watt, però che mi sono bruciato i finali, capito, di trasmissione. Poi ho già detto questo piccolo. Capita in zona, vengo a trovarti, poi vediamo, adesso così deciso, cioè non ho venduto mai apparati io, Gennaro, mai, e all'epoca facevamo qualche scambio così, quando ero ragazzo, però niente, non ho venduto mai apparati perché, hai capito, non ho molta roba di quella recente da poter vendere, riprendi già. E come per effetti questi apparati a guardarteli solo senza usarli, boh, io te li capisco. Io ce li ho gli apparati qua davanti, li vedo sempre, in più li uso, li faccio girare, ne ho una o due con prestazioni, poi ogni tanto le faccio girare una. Poi c'ho il portatile, boh, ne ho 4 o 5 gli apparati, basta. E al vantaggio, ma io ovviamente ce l'ho così, giusto per, come diciamo vecchi gloria, io sono come Claudio, solo che Claudio aveva, come si chiamava, lui proprio lo mette a pontino, le proprie, li tiene, hai capito, è una cosa, boh, passione, chissà che fine fanno pure. Ok, Gennaro, riprendimi, che vedrai che vengo a trovarti, non so quando, però come capito di buona ti faccio uno squillo. E il mio numero? Fiato? Certo, seguo il numero di telefono. Negativo, non datemi i numeri di passa e non parliamo dei numeri di passa già in frequenza perché ascoltano, è una cosa. Lo ritraccio anche se è il numero di bassa e se voglio ritracciarlo. Hai capito? Non per voi già, né per noi che moduliamo, però c'è gente che ascolta, che qui riesce con dei walkie talkie a ascoltare le conversazioni, quindi non voglio, hai capito, che si diano almeno io un numero di bassa in telefono in radio. Ma te lo stava dando lui, Gennaro, te lo stava dando. Ma non lo voglio già, non è corretto già, non voglio il numero di bassa. Però a non preoccuparsi che io lo prendo a dolore, quello capito, lo rintraccio tranquillamente. Ma io mi trovo in via Roma. Che mio cugino l'ha sposato lì a Donorva, era sposato lì a Donorva, quindi hai capito, riesco a trovarti. Io mi trovo in via Roma 39. Roma 39, va benissimo, che mi ha detto la via e passa, e i numeri di passa non li accetto in radio. Hai capito? Non dite mai perché non è mai riascolto, c'è una cosa proprio, io te lo posso dare però quando ci vediamo in verticale, perché è una cosa proprio noi del cellulare, non per noi che moduliamo, ma ci può essere anche altri ascolti, gente che non è inerente, diciamo, all'attività radio, che volontà c'è, cioè, già queste radio, hai capito, anche non mi piace la gente che ascolta, che non fa parte, perché a me mi hanno detto già, che mi hanno sentito nei nostri tocchi, qui gente che ce li ha di questi cosi, che per loro per segno, quindi non voglio dare i numeri di telefono. Il canale 14 posso aver sentito. Gennaro, sicuramente quando va a trovare mio cugino, mio cugino che abita a Teoleto, lo che abita e faccio un salto, tanto se vai al tiro di schioppo, buonanotte, lo vedo io. Poi lui anche c'ha una casa lì, c'ho una casa, lui si è parato con la moglie, c'ho una casa enorme, capito? E ogni tanto lui ci va e così, no? E quindi mi farò un salto e verrò trovarti, perché c'ho anche un vecchio amico di vecchia data, Capitano Nemo, che è modulato, non so se lo riesco a nominare. E dico, tu quanto puoi venire quanto l'ora fa? E adesso in questi giorni non che sono impegnato gennaio. E diciamo che un giorno da poter venire. Fate girare, capo. Maria, il numero. Penso che dove se ne è stato poco fa, vedami. Che prendi, Giuseppe? Sì, capo. Cazzo, ma qua è un asilo, cazzo. Non cominciamo a far vedere, cazzo. Sì, comunque Gennaro, stiamo dicendo, Giuseppe, stiamo discutendo un po' il questo disastro di Gennaro. Io rimetterei subito, è entrato l'amico Giuseppe con le scuole capirone, rimetterei il cambio e niente, Giuseppe, quindi. Va bene che va bene queste oggi, però date anche spazio agli altri che sono in attesa, oggi scusa, se te lo dico. Ma offeso sì. Non ci offeso, già non ci offeso, già lo sa che chiacchierò. Dai capito. Apri due. Vabbè. Si la bigliata va. Avanti Gennaro. Ma tu lo senti a Gennaro? Ti complico, lo sento. Comunque, se non rimani i saluti da parte mia. Vado a vedere se arrivi, dai. Gennaro, vai a vedere se senti Giuseppe. Poi c'era anche Fabrizio. Ma ascolti, in cambio? No, ascolta Giuseppe. Allora c'è adesso avanti qualche altro canale. Fabrizio. Sì, io mi sto ascoltando, sono qua, sono qua. Sempre la Bolanna. E se faccio il trappo e lo chiudo e via. K. Avanti Giuseppe. E K, ehi. Comunque buonasera anche a Fabrizio, Abbassa quel microfono, cazzo, mentre sono in cuffia, cazzo, abbassa la parampaia, Giuseppe. Ma che mi stavi chiamando? Sì. Chi mi stava chiamando, già? Fabrizio forse ti stava chiamando. Fabrizio. Sì, qua sono. Mi acclamo. Ciao, Claudio, è bene. Tu non vado, io non ti intendo, no? Ecco. A cosa? Non lo so perché arrivavo così a cosa. 100 mW stavo uscendo questo apparecchio. Ho fatto prestare, che mi dà che lo prendo uno professionale perché adesso ho un po' tutte le apparecchiature, no? Ecco, infatti ho messo il barometro, vado a controllare, quindi c'erano 100 mW, quindi un decimo di watt stavo uscendo. Perché adesso sto uscendo basso, Fabio? Si sentiva un po' più. Come, Cla? Santiago 9 sta arrivando. Santiago 9? Ti si è abbassato. Aspetta che controllo il perché. 9? Yeah. Anche la radio è abbassata, Fabio. Si è abbassata la radio, Santiago, tutti. No, sentiamo meglio. Si sta uscendo una bomba di là. Ti chiama? Oh, riprendo fra un po', aspetta. Ehi, te lo chiamano. Sembra Gennaro. Gennaro. Ti avevo chiamato e non rispondevi, pensavo che avessi girato il canale con Capri 2 perché non rispondeva manco lui. Già sono qui già io, non sono sceso a chiudere la porta che non capisco. Ciao Claudio, buonasera. Niente, non ho modulato il mio chiacchierone, mi picchiano stasera. Hai già appunto che sei chiacchierone, non ti devi offendere, no? Allora c'hai i semplici e i difetti, però io parlo in faccia, te l'ho detto, sei chiacchierone che quando prendi il discorso poi non molli più, è quello che c'è. È un piccolo difetto che Giuseppe ti ha fatto notare tutto lì. Non ho fatto, Atlantico. Giorgio, ci sentiamo. Ando a letto. Ma già mi capisco soltanto. Ah. Giuseppe. Io non ho avuto, non ho avuto ricordo di Boschina. Chiederei scusa, certo mi sono permesso a dire quella cosa, però già anche gli altri hanno il diritto di dire le sue nel canale, però se sta sempre parlando lui è inutile. Ma stai tranquillo, tu sei che non me l'ho presa, fai tranquillo, anzi era un big pop che funziona perché non mi dico facile, niente Giuseppe, fai tranquillo, hai perfettamente ragione. Ma che cosa è successo con gli altri? No, stavamo facendo un big pop con Gennaro, niente, grazie, non c'è, è corretto, ho lasciato un po' di bianco a parlare anche gli altri, perfettamente ragione. Perché l'omologato, credo sia che deve rimanere omologato questo, quindi lo metto in stazione. questione. Poi adesso mi devo portare l'irregolare, quello che mi diceva, aspetta un attimino, intanto vi perdo un po' di tempo. L'EBS, aspetta, quello di aspettazione. Ora aspetta. No, già va bene, va bene. Ora. Sì. Beh, adesso sperando che dice, vabbè, dai, già vorrebbe andare bene, dai. Riprendi il clac che ti controllo. Oh, no, il segnale, anzi no, Gianni doppio rum, che avevo segnato il segnale Gianni, vieni avanti, per favore. Guarda a vedere se è uguale, segnale. Ciambu. Vediamo a mi regolo quello di cosa, dai, di cosa, aspetta un attimino, scusate se vi faccio perdere un minuto, così lo chiudo, scusate a tutta la ruota. Gennaro, vieni avanti. Sto sempre girando, Gennaro, quando parli, perché gridi? Gennaio, ti richiamo con l'altro apparato, voglio vedere la tra lo smitter un attimo Gennaro, la comando Gennaro, ti chiamo adesso, Gennaro. Mi avanti, fai un passaggio lungo, per favore. Passa come modulazione questa radio, Gennaro, ma sto facendo una tarattura, mi Gennaro, se vieni avanti un attimino. Con 548 mi sbaglio adesso. Sì, che poi si è sentito, ho problemi da aver risolto. Aspetta, Gennaro. Cazzo mi segna Ricciari. Dai, fai un passaggio lungo, per favore. Ah, va bene, dai. Beh, così lo lascio andare. Niente, Ale, era il... Stavo uscendo, sentivamo quanto ridicolo, cazzo, con un decimo di watt, 100 milliwatt. Adesso era una resistenzina, adesso va bene. La prima bombina è per finale, scommetto. L'ho messa apposta, la resistenzina che andava, il prefinale non gli arrivava la tensione giusta. Non ho capito quale. La bobina per finale. C'è la resistenza infatti lì, che ti dà la limitazione di tutti e due. Infatti adesso viene a surriscaldato. Adesso mi ricordo il colore della verità. Comunque già è ricordo. Andà bene. Mi pigliate la... Boh, chi c'è? Avanti. Gennaro, ma perché gridi quando parli? Aspetta, perché gridi quando parli? Abbassa quell'eco, no? Non c'è bisogno di tenerlo tutto a manetta, no? Parecchio in confronto a quelle catapano che avevo prima. Buone. Cos'è? Ah, buonasera. Da me. Thank you. a verificare che arrivi più forte. Cosa non ti faccio io? Guarda, signora, ti sussa forte, 9-10. Non solo a te sussa, a parecchi mi sussa pure. Gennaro. Claudio. Capito, qua sa se si lamentano perché arrivi più forte tu che loro, eh? Sì, si lamentano che arrivi più forte tu da Bologna che loro la Sassari. E come mai, Claudio? E che ne so io come mai? Vuol dire che loro sono più deboli di te, capito? Signore, non ha cambiato niente, la radio è cambiata. garagino, lascialo stare così com'è, mi ho tolto le cuffie, cazzo, però la sera uso un'altra radio a quest'ora, non mi vuoi ammazzare. Ma sei allucinante, ma non c'è quanto penetrato la modulazione, madonna, a quest'ora non fa, chiude la porta e togliermi le cuffie perché mi stava insorgando, cazzo. Capito, Gennà? Mi fa paura la modulazione. Come fa paura, Claudio? Cazzo, in italiano rompe i coglioni, hai capito? La notte quella radio rompe i coglioni, è troppo alta. Ho capito. Hai capito? Se io sono in cuffie, mi devo togliere le cuffie per ascoltare a te, se no mi fai sordo. Hai capito? Quella è una radio che si usa di giorno, di notte noi siamo abituati a parlare piano, non con questo rimbombo. Ora come mi ascolti, Claudio? Sempre uguale, sì. Ho fatto le modifiche. Adesso si secco. Oh, va bene. Guarda, ho fatto le modifiche. Adesso non ne hai, ecco, adesso va bene. La calamità li ha bene. La calamità li ha passato. No, c'ho fatto la modifica. Ho chiuso tutto. E cosa hai fatto, Gennà? Ho fatto la modifica, perciò c'è stato l'eco. Ma la modifica com'è che la togli? Così chiudi oppure c'è un pulsante? Ma ho capito sto cazzo radio come è fatta, sinceramente. Quando togli la modifica c'hai un gesto dietro, hai capito? Ah, ecco, invece, quindi vedi che si può togliere. Invece io per attivarla devo passare la calamita, capito? Per toglierla lo stesso. Non c'è problema, oppure la spengo, la riaccendo e va in automatico, capito? Adesso sempre mi senti bene, oppure come mi senti? Benissimo, alla grande, senza eco, segnale 9-10, non c'hai l'eco, vai benissimo, perfettamente. Fabri. Dimmi, Cla. Bene, lo senti a Gennaro. Ah no, vieni avanti Gennà, che ho finito adesso, mi rilasso, mi sono un po' spapparazzato sulla sedia e sto provando questa radiolina, vieni avanti un attimino. Gennà. Ciao Fabrizio! Gennà. Fabrizio, dimmi. È un passaggio, voglio sentirti senza ecco. Sì, un po' la voce, Fabrizio, non ti sento. E ora mi senti Gennaro? No, cioè va bene Gennaro, anche così va bene, no, non c'è problema, non c'è problema. La bomba arriva da Bonorva. Ah, no, quel segnale, Gennaro. È un po' meno da me, vabbè, io c'ho questo baracchinetto, però un po' meno arriva. Però arriva una bomba. Gennaro, mi ascolta a me. Positivo, Gianni, buonasera. No, sono Gianni, sono Alessio comunque, buonasera. Beh, sentito, mi ascolti bene o mi ascolti basso? Ma ti trovi a Sassari, positivo. E mi trovo a Sassari. Com'è il segnale? 5, 7, quant'è? Fammi sentire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti arrivi... No, va bene, mi dico niente, già è la verità. Avanti Fabri, tu sei arrivato il forte sensato, tu minimo di B7. E adesso sono con 5 watt. Ma guarda, prova con l'altro al limite, vedi, dovete arrivare a 7 di segnale, 7-8. Tu sei perfetto di me, io sono chiuso da quella parte di Bonolfa. Sai che prova? Prova un po'. Attenzione, Gennaro, se ascolti l'occhio di gatto. Sì, Fabrizio. Dammi un controllino, Gennaro, un controllino con quest'altra radiolina. E gli arrivi qua 7-5, con Santiago di Cisenza. dici di bim più di me. Testa, no, è possibile. parte che Fabrizio è molto più favorevole di Claudio, la verità, perché in quella posizione che dovrebbe rifare minimo due tre di B, qualcosa in più forte, ma quindi addirittura più basso di Claudio, non lo so. Non è contento di quello che arrivo, purtroppo è così, non so cosa fare. Basta quello che ho, non c'ho soldi e quindi non posso modificare niente. Avanti Fabri. No, Bagliano, no. Fabrizio è lì, Fabrizio in quella zona mi ha fatto più una pippa a me che da nessuna parte. Neanche verso Alghero, guarda. Quindi stai completamente sbagliando. Proprio zero. Io sono con 50 watt e sono con 140. Se attacco vai al 48 con 1131, arrivo più di 9. È lui che non c'è proporzione, è lui che non c'è, se a me mi arriva 9-10, come fa lui a dare 7 a Fabrizio e 7 a me? Non ho capito, addirittura prima gli ha dato 5 a Fabrizio, con il barattino collineare, è impossibile. Appunto per quello, quindi... e lui ti dice cosa a me? Io a lui? Io rimasto 9.30 in quelle condizioni, e non ero dormivo tutto canna, e lui ci ha dato 5. Infatti guarda, io adesso ce ne vado al 48 e con il 131 spero a salvare, vediamo quanto mi dai, perché passo da 50 watt a 200 watt, vediamo cosa mi dici. Ah, poi va liscio qua, solo non c'è più gusto. Liscio mi dà sempre lo stesso segnale, sentiamo 7 con 4 watt. Che se per 7 sì, è una bola, allora c'è un ciuffo già. Prima di giorno. Genda. Quale cose stanno male, eh? Dopo la vita Claudio, perché dai segnali strani, non può essere. Dai segnali giusti, Genda, cosa vuol dire? Capire tu la lente, fa quello che vuoi. Perché non è possibile che Claudio arrivi più basso e per dire un'altra arriva più alto e l'altra arriva più bassa ancora. Quanto la Bruno Smith e Gennari con la parete, se no cambiatelo, cosa vuol dire che? Non ho capito, Gianni, ripeti. Gloria. Fabri, fa un passaggio con 100 watt. Adesso sono a 40, ora 40 e 30, 40 e 60 modulati, ora attenzione Gennaro. Fabrizio, quanto ti arrivo adesso? Scusa Fabrizio, questo il problema sono anche quelle e basta. Comunque tu non torna a vedere se gli arrivi a 9.30 io. No, non ci preoccupare, io non c'ho niente. Se avessi avuto il ritmo di medico, se stato quello l'avrei anche usato, l'avrei anche rischiato per dire che c'era l'antenna, ma la cosa è a poco. Tutti che sono finiti, purtroppo sono finiti, non avrei fatto più niente. Quello che c'ho purtroppo tengo, sono 50 watt, sempre 50 watt sto usando, a me che uso di più. Tu già lo sai più di me. Però se mi arriva già devi venire a vita la verità si dice, no, non è possibile, ma o non conosce lo Smith, non lo so. Senz'altro non conosce lo Smith, perché non è possibile, 9.10, 9.20, dei segnali strani, non lo so. Tutti i segnali smallati, allora poi c'è l'altro la pensatore che si è cambiato da sola, questo non lo so la vita. Che io sia favorevole dal segnale, perché sia Fabrizio e a te arriva 9, meno 9.10, evidentemente c'ho più apertura di voi, però non riesco a capire come mai Fabrizio fa tre passaggi, io vedo il segnale di Fabrizio che è più alto qua, quindi sicuramente ha 4 watt in più, e invece arriva più basso di quando è liscio, capito? E appunto per quello perché si è salvato. Io che ho la bella di 7 pelle con i radiali e arrivo 7, fa dubbio che non è che sia liscio, sta pompando, si vede che sta pompando, non cambia niente, il discorso è quello, invece tu arrivi 9.20 strano. Dovete arrivare ancora più forte tu, perché tu sei più aperto di noi due, la verità. Anzi, dovrebbe essere Fabrizio più favorevole di te, perché lui il tocco della natura sua che è aperto nel centro Sardegna, è strana la cosa, non lo so, non so cosa pensare, la verità. Sembra molto senso, non lo so. No, Fabrizio ti spiego per Bonova. Io ce l'ho davanti, io ce l'ho proprio davanti Bonova. Perché supero scala di ciocca, sono più alti della scala di ciocca, sono praticamente all'altezza di Saccaggia e quindi lo prende in pieno, capito? Mentre Fabrizio lo prende in fianco, può essere che c'è una differenza, ma di poco, non da 9.5 a 9.20, perché qua rispetto a Fabrizio a me mi arriva più alto lui, è 9.10 pieno. Col baracchino addirittura è oltre 9.10, ma il baracchino non è affidabile. Mentre invece col 140 è 9.10, capito Antone? Però io adesso sto andando con l'Avan 48, più o meno sono gli stessi fatti che stavo usando poc'anzi. Questi sono 40, quelli là erano 50, 35 questi e quelli là 50. E invece arrivo più forte con questo, ho capito. Io ho capito, però non hai capito a me. A volte capita, come è successo a me, di abitare, per dire, tu sei più alto, quello che si vede sei più alto, però a volte capita. Nella zona dove abitavo io, il sindaco della genere, io avevo tutto, avevo provate, senza calcia, eccetera, eccetera, Bonova, tutto. Avevo in pratica più basso di te, per dire, però c'avevo di fronte, avevo tutto. Capito cosa vuol dire classe? Tu non ci sei mai venuto a casa mia dove abitavo prima, quindi non puoi capirlo, però se tu sali sopra un tetto, dalla parte di cosa vuol dire, si vede tutto, si vede, si vede, lo vedi tutto, aperto, sembra che sei in più basso invece sei in alto, perché c'è tutto molto aperto. Io addirittura per dirti, dove abitavo io, l'ingresso del Diussi, lì dove c'è la Madonnina, lì ero con lo scala io, non c'è adesso, dalla zona di Sospianos, per dire, a Litterai, ma proprio in pieno, non mi trovava nessuno. E il discorso è quello, dopo capita, magari sei in un punto, sei aperto, sei più basso di te per dire, però se è aperto lì non c'è niente da fare. Proprio per così la 27, non è che, cioè, più alto, non è che più alto sei più esci forte, non è assolutamente vero. A volte capita che sei in un punto buono, e poi in qualsiasi posto. Invece quello magari che tu sei beato di lui, non ce la fai a sondare, cioè secondo me. Hai capito quello che voglio dire? È tutto così, quella domanda via di Zedo, via Maternata, cosa del genere. E appunto per trasformarsi a Sabella, ti ricordi come, quando voleva lavorare a Madirio? Poi io parlavo con tutto il posto di Sabella, dove c'era le bide dei salici. Io mi ho detto come facevo con l'altra della macchina, con 127 che si aveva. E qui lavorava forte, in questo riporto con quella specie di capibilità che si aveva in macchina. Usciva bene, la verità, perché era un punto buono, anche se era più basso, perché lì è basso in confronto a te, cioè tu sei più alto, anche io sono più alto, però il problema è questo, ci sono due punti purtroppo, passare che è a volte prendi, a volte no, ma perché se è tutto per parte così, non ci possiamo fare niente. Riprendo un attimo. Asco, riprendo fra 5 minuti che provo a spostare questa radio dove la devo tenere, capito? Con la trentennino, arriverò più basso, così la provo, dai, così fa la funzione per quello che l'ho comprata. Ci sentiamo fra 2 minuti. Ehi, Fabrizio, sono ancora. Sì, ti ho capito, Antonio, ma no. Non ci sono problemi per questo, Fabrizio c'è un'ottima zona, senza ombra di dubbio, no. Però io su quella zona lì, Bologna, Posto Maggiore, Cossuine, Padia, Semestre, tutta la zona che abbraccia Bonnannaro, Torralba, Nove, Sottieri, tutte quelle zone che ho fortissimo, c'è tali paesi che ho davanti, ce li ho davanti, tu prova ad andare dentro Alghero, ti metti in macchina al porto di Alghero, e parliamo, parla Fabrizio e poi parlo io, vabbè. C'è un abisso, capito, no? C'è un abisso, completamente un abisso. Poi ci sono zone, chiaro, dove lui può arrivare più forte o quanto me, non c'è problema. O io viceversa, più basso o più forte di lui, dipende. Io da qua non ho mai avuto nessun problema, soprattutto con quelle zone. Tu immaginate che l'altro giorno c'era Luigi a Coso, alla Basanta e gli arrivavo 9. Poi l'altro giorno a Coso lì, come si chiama? Vicino al Nuvolo, lo stesso è. Ed ero fortissimo, non ho problemi, non me frega niente, arrivo a tre parti e portate a arrivare. Poi, come ha detto Gennaro, è aggiornate, vero Gennaro? Quanto ti sto arrivando adesso? Adesso sicuramente è salito il segnale, così è. Adesso sto andando col VV131. Quanto è il segnale adesso? Ci avevamo molto di più di 9,25, dai. so che quando va a parlare so che guarda il 30, so che si può immaginare. Ecco. Scendi a 9. Come? Adesso non era quel coglione, mi sto sembrando più grande. No, ci vediamo dopo, aspetta. Io sono qua, io non c'è problema. Aspettiamo a Fabrizio per fare la prova, vedete. Io. Perché Antonio non sono mai venuto io in via Rizzi? Dove si ritende? Allora, sei venuto, perché sei venuto un sacco di volte, proprio perché non sei venuto a casa a contare o a parlarci per dire. Come ripago io, per discorso di questo, noi se ci avete sapete di sedu al bar, poi se tu ricordi bene, quando ti parcheggio il mio fianco del barretto del Maricone, quella lì è una ben aperta. Come è tanto anche la zona dove c'è le bighe di Salli, se ti ricordi bene io parlavo la notte con la zona di Nuova, allora c'era, vabbè, c'è un sacco di gente. Quella zona è micidiale. Il punto buono parte da dove c'è il negozio di Branca, per dire, fino ad arrivare alla villa dei Salici, qui c'è un canalone che è aperto, per il centro Sardegna, e non c'è niente da fare, è veramente bello. Poi quando sali più su queste bambinate, come vedete, quel punto sparisce, perché sembra che c'è un canalone, cosa vuoi dire io? Ehi, Fabrizio, sì, che sono venuto, già no. Sono venuto, anche sui Mansarda, già mi ricordo. E zone buone sono, tutte sono zone buone. Basta che siano aperte, non c'entra niente che sia in alto o in basso. Basta che siano aperte, capito? Avanti, Fabrizio. Adesso io sono qua in soggiorno, niente, questa roba mi serve per qua, l'importante è farci sentire, dammi un controllino sia a bombolo, audio, Alessio, riprendi il plan. Sento così in basso, sento uno per appena, ma con la tua sì, dico io. Con l'antenna della macchina. Ah, oh, vabbè, poi dopo vinne. Allora io ti ascolto, qui ti ascolta anche Claudio, se io ti ascolto loro, Claudio ti ascolta lui 9:10, quindi il controllo non è che vada molto, chiedi per a bombolo, che è più distante. Peccato, qua sei Santiago Sense, io sono più lontano. Quanto? Santiago sei tu. Sì, l'importante è che mi ascolti, dai. Vabbè, ma Antonio ti sta ricevendo con l'antenna piccola e quindi cazzo Santiago sì è ottimo come segnale. A me mi arriva più basso ovviamente, perché io ce l'ho, sono in alto, l'antenna ce l'ho sul tetto. Già l'ho visto. No, quasi 9:10 abbondante, quasi 9:15. Va bene, è così, se molte volte sono in soggiorno faccio compagnia, posso ascoltarvi e ogni tanto entrare ugualmente. Capa, conta che io sono, cioè sono anche più lontano di voi, da confrontare lui. Grande, ma infatti è un ottimo segnale quello che gli hai dato. Capa, è stato così la vita. La radio non che sentirla bene perché c'è questo capo di QRL stasera, però va abbastanza bene, dai, per essere un anteriore lo sento abbastanza bene. Già va bene, non c'è problema. A qualche punto di stazione di ciò, proprio qualche puntino. Come vai qua? Come vai? Non lo so. Ma perché ti sei spostato? Studi, attendivo che ti sparte a vedere c'è una su canale Omega, ma poi sì. Non ci credete che mi spatterà un canale? Ciccio. Sì, Salome, sì. Ehia, come ai vecchi tempi. Come ai vecchi tempi. Un casino, questo qua è una staffettina. Perché? Questo non lo capisco, vedi? Fai come ho fatto io, mettiti un'antenna orizzontale e ti diverti ogni tanto, la fai girare. Ed è perfetta. Ascolta, che cos'è la lucetta che c'è? Per vedere? Quella lucetta che c'è AW su questi baracchini, cosa vuol dire? È stazionale, insomma, non dà diretta quella cosa, parla, ti ho detto cosa devi fare, devi fare la salatura, so che dopo il tipo di navigazione, il logico si accende quando parli, solo quando parli. No, adesso è spenta, poco fa era accesa, infatti lo so che era quella, perché se no, infatti ho controllato subito le stazionali, zero, adesso qui è spenta, buh. E vabbè, regolati quel trimerino che ti ho detto io, e poi vedere se spegne, non c'è problema. E c'è spenta. No, ma spesso che vado bene, guardate se rientra a gennaio. Ehi, no, non la guardo mai io quella lì, non me la fotti nulla, guardo, lo smetto io. Sì, infatti, è strano, è strano. Grazie, si accende. No, vabbè, ma adesso va bene. Vedi qua, ecco perché sta lavorando in maniera diversa, perché c'è un'altra antenna. Cos'è di poco? Anzi, non so cosa faccio adesso. No, non il dipolo, adesso lo so cosa faccio. Non aggiunga una base, controllavo le stazionarie che non ho ancora controllato su questa antenna. Mi lascia stare così adesso, non va diretta quella cosa, perché quella è diretta la simpatica per avere uno di stazionali con la cosatura, con tutta la modulazione, capito? Quindi quando stacchi cambia tutto, hai capito il discorso, quindi non lo vuoi talarlo. Ho capito. Esatto. Ok, dai, per voi Fabrizio e anche Claudio. Buonasera, vi saluto a tutti. Non te lo dico anch'io perché è stanco stasera. Scappa, vai. Ce la risentiamo la prossima domani. Ciao a tutti. Ciao, no, ci sentiamo domani. Alle prossime. Avanti, Fabri. Prendo io, dai, anche io altri 10 minuti come rientra Claudio, poi mi prendo, mi guardo un po' di TV e spengo tutto, dai, così mi stordisco un po'. Ciao Anto, buonanotte, sentiamo, dai, alle prossime. Buonanotte, mi dispiace, ma sono stanco, dai, non volevo sbagliare, ma tu che lavora tutto il giorno. Sta meno male che è uscito la porta, meno male. Perché lavoravo due giorni fermi. Ok, dai, ce la risentiamo. Ciao, ciao, pesce. Avanti, Antonio. Avanti, ci sentiamo, stammi bene con tutti. Buon quelletti e buon lavoro ormai. Ok, buonanotte, va, Biserre. Non c'è, si è spostato. Ok, Fabri. Dimmi, se ce la faccio mi guardo un telegiornale più dopo. Oggi volevo vedere questa Roma ladrona, come rubano, che avagassa loro. Hai visto Roma ladrona, se rubavano più degli altri. Abbiamo visto. Ricordate una cosa, quando uno vede un patogente di qualche cosa, lui ci può si mangiare i soldi. In tutte le cose ci sono così, nelle associazioni per dire cose del genere, che è successo sempre casino, quando sono tutti i soldi dall'esterno c'è chi ha fatto Laos, e quindi c'è tutti per quel motivo lì, capito? Ma quando è troppo, cazzo, roba ladrona, cazzo, ha fatto e da buio, l'ubigliolo che si compra la macchina, tutte le spese, casa pagata, ristrutturazione, cazzo, è una cosa assurda. E di chi vuoi che stia parlando qua? Già le fa bene anche a lui ogni tanto prendere i colpi. Assurdo, no? Ma quello qua è l'incoglionito, però invece ieri sera che abbiamo passato per incoglionito, diceva di più non sapeva nulla. Cioè di più non sapeva, addirittura non sapeva neanche che, sapeva, che non c'era mai con il prova, più che tu quante diceva quanto era tonto. Che schifo, cazzo. Che schifo, per carità. Questo non sai cosa mi ricorda, tra. Ti ricordi tu, mi sembra che c'eri anche tu. L'associazione di Torre da Torre che c'era, che sono arrivati due ragazzi di minigonne e cose del genere, e quel tipo che c'era dentro ha pensato di comprare a, no, cioè, a nome, non a nome, con i soldi dell'associazione, con il cibo di viaggio di Torre che è su un tallino. nota su 10. Arrivo un po' di batte, ma in basso, adesso invece sei salito, capito? Perché io non so. Mi hanno tutto il 240 bar. Io quando ti arrivo con questa radio invece, come ti sta arrivando? Claudio, 5-3. 5-3, cioè ancora più basso. Ancora più basso. Power. Dai, tavola, più non posso. Pump the volume. Vabbè. Vai, Antonè. Ma è Natalino, non ho più sentito. Che fine ha fatto? Ditemi, ma come sta? Tutto bene? Stavo volando, tutto bene, sono tutto compasso. C'è il grado che arriva basso, anche come me, lì nella parte di Bonova, quindi c'è questo di entrare a casa tua. A tutto il mio gusto più che altro. Tu vieni a casa, tranquillo. Fai scaldare la caldara, quella con le castagne, attacchi tutto un controllo all'amico di Bonova. Mi scappa la risa a me. Vediamo se gli accendo la luce a casa. Ho bisogno di schiacciare l'interruttore. Mamma mia. Se da un po' mica non lo metto in funzione quella specie di scaldabagno. E fare entrare un po' in temperatura la 88-77. Oiaia, bene, sta lavorando, non è possibile, allora sente male, sta lavorando. Ah, vecchiaia, si vuole mettere a lavorare. Beh, tutto per così, se un lavoro come fa per i soldi, il discorso è quello lì, come me. Se un lavoro, anche se poco, 300 euro al mese, meglio di niente, so. Guarda che c'è qualcuno che sta chiamando e stava anche sovramodulando. Occhio che sono già vicino a casa, eh. Accendo tutto però non sovramodula più nessuno. Attacca. Perché ho già messo a scaldare la pentola io. Genna, se continui a gridare vengo a Bonova e me la stacco con l'antenna. La radio a Bonnanaro. Mi fumo, ma non è nulla. Mi trovi la radio a Bonnanaro anziché a Bonova, ma perché devi aumentare le cose? Già sono troppi i borse che le terranno, ne terranno 15, lo vuoi mettere a 20. Che succede, Claudio? Si debba tutto. Il baracchino, Gennaro, bruci il baracchino, le radio devono andare a 13,8, già tu sei sovralimentato, mi stai dando 15, lo vuoi portare a 20. Ho capito, bruci l'apparato. Ma certo, cosa vuoi fare, l'ampli come l'altro, vuole all'altro succede, non toccare niente, lascia stare tutto così, non devi toccare mai né l'alimentatore e né il vatto del baracchino se devi usare il lineare. Perché altrimenti bruci tutto. Di fare come faceva Dio Walter, che lui con il lineare attaccato commutava la radio all'altra dimenticandosi che aveva sulla stessa frequenza e poi usciva il fumo. Di luna me ne è venuto a me crepata così, tipo 9.40, no? Quando gli mando le bollicine nel cervello facciano le prove. Quando diaboli che se sia l'ascolto vieni fuori con quella mascherina che qua c'è l'ispettore Cinco che ti mette i petardi nel cuetto. Ci passano il 27 che sa che c'è Carlo Sparviero che fa la bua. No, non entra qua perché c'ha problemi, un dopo la notte adesso, capito, da quando è rientrato in città c'è quello macchina, un dopo la notte. Mandagli un sms e digli che ci sono io che ho l'amplificatore acceso, lo vedi se è qua subito, ci mette 3 minuti, il tempo di ritardo dello start della valvola, dello stand by. Non ho saputo che ho ordinato l'Emitron, è preoccupato, se tutto il 125 è preoccupato, molto preoccupato, sa che con l'antenna che è già montata da 50 metri lì, un certo chilometro di bicicletta, è preoccupato, sta già cominciando a pensare cosa le può succedere se mi trova in 40 metri. Bisogna infatti mettergli sale sulla coda, sul codone, sul naso, mandagli un sms, gli scrivi, c'è Marco che sta imperversando qua sul canale 10 con l'amplificatore, che sta chiedendo controlli in giro per la Sardegna, vedi se fra qualche minuto non è qua. Ha spedito, non vedo la prossima settimana. 111, fermando la bestianina. Le aeree 811, l'XM, si è preso quello XM intorno ai 700-800 da in 10 metri. E quello lì è quello con la comunicazione digitale. Una bella macchina. Una bella macchina, e frato, quella è terna, cioè compri dura veramente per tutta la vita. Sai chi ce l'ha? Ce l'ha Marcomi, giù a Alfarima. Oh, Marcolino, ci picchia, ma lo stavamo venendo. Ah, scusa, qualità prezzo, c'era un Dell 911 a 1200, 911 a 1200 lotti. Esatto, che però a quanto mi hanno detto è molto molto delicato per come lo vedo io. Quello di nuovo 1350, una cosa del genere. Beh, sono, sai, quello là, il TL dà un pochino più di potenza, però è anche un pochino più fragile. Poi se fra l'altro lo usi qua in AM, che gli dà una, c'è sempre qualche problema sul trasformatore, perché di trasformatore ne ha uno e fa più cose. La metro da meno power, però è fatto bene, capito? Guarda, non c'è niente da fare, è sempre il solito discorso, neanche Antonio, vedi, ha cercato di mettere a posto, di fare niente, c'ha sempre qualche seccatura, ce l'ha, non puoi stare sempre con i coperchi aperti. Poi tra l'altro, uno che ha la capacità di metterci mano è una cosa, un altro che deve invece prendere, chiudere e spedire è un casotto, spedire quelle cose sono pesanti, come fai? È una tragedia se devi mandarlo con i corrieri, anche perché te lo rompono, capito? Lo buttano giù e lo acciaccano, non c'è niente da fare. Io quando una volta solo l'ho spedito, quello mio, quello per l'HF, già l'hai visto quello di quanto pesa, in due bisogna sollevarlo, non so cosa sarà in totale, ma cassa in legno, dentro con le traverse in abete, con tutti i rifotti per carichi pesanti e con le maniglie per la presa, capito? Solo così lo puoi spedire, è assicurato, altrimenti te lo sfasciano, tu lo sai come lavorano i padroncini. Ci sono problemi, non ci sono 35 euro di spedizione, fatto un botto. 35 euro di spedizione, 25 più 10, un casino. Noi già di per il 922 che è molto, molto più pesante. Vabbè, vediamo se per l'arrivo lo mettiamo sotto. È già pronto l'850, è lì che sta aspettando. Pronto subito all'uso. Vabbè, dove vuoi, Gennaro? Se ti faccio fare 4 giri di Smith e ti sicura la pittura su Arachino. No, non risponde. Sempre che non abbia girato la manopola dell'alimentatore, il potenziometro lì della tensione, e si è arrostito tutto. Antonio, mica ho preso le forbici da portare per casa, ti do una svoltita a quei baffi un po' a pendolone che hai staccato in quell'antenna. Hai visto la direttiva, Ho visto, una potatina lì. O se no ti mando qua qualcuno dei miei vicini che sono specializzati per portare le antenne, non per portare le piante, ma le antenne. E devo mettere il motore adesso, appena metto il tubo giusto, guarda che metto anche il motore, lo faccio anche girare. È tutto già pronto, la verità. Però bellina, visto vai? Fatta bene per la 27, con due radiali di... Il nippone c'ha due radiali di cosa? Di banco da 5, perfetta, in vetrovese, da dietro e 10% in più, calcolata, di alluminio, è un bombò. E vanno bene. Vanno bene, almeno se c'è qualche collegamento, se ti piace fare qualche collegamento a lunga distanza con quella, c'è una... una possibilità in più, cosa avrà? Qualche decibel di guadagno in più, ma soprattutto se vai a fare collegamenti dove trovi gente che va polarizzato orizzontale, perché se gli altri sono polarizzati orizzontale, tu sei con la Mantova, non ti ascoltano o non li ascolti. Se invece sei sulla stessa polarizzazione, magari a 1 o 2 fai collegamento tranquillo. E te l'ho fatto bene, soprattutto vedo che ormai quest'anno preparazione a più non posso, si può già incominciare veramente a divertirsi, non sarà come i tempi passati, però già incomincia a arrivare i segnali dall'altra parte del pianeta. Se una voglia di fare 4 chiacchiere con stati lontani, si può divertire. Sì, guarda Marco, l'ultimo l'ho messa sotto per l'ho fatta io, però sopra siamo stati i radiali dell'antenna 58 sono cambiati, sono molto molto più lunghi, in pratica l'ho messo a vedere la Queen, quindi siccome quelli originali non andavano in certa frequenza, allora appunto ci ho messo quelli più grandi, era perfetta. Sto dicendo che in 6 è in V, è una bomba con l'antenna, misura perfetta adesso. Una L5 che in pratica è chiusa, perché è chiusa normalmente, adesso è ben aperta, misura in qualche frequenza, quindi l'ho modificata per un motivo lì. E va bene, va veramente bene. Da un sacco di soddisfazioni, in confronto a vedere che c'era prima con i suoi originali, adesso è perfetta. Adesso è lottato, perché quelli italiani sono molto più grossi. Ho capito. Hai fatto bene. E comunque avere insomma due diversity è utile per fare attività di ex e ascolto oppure anche collegamenti. Caro Claudio, ma le stavo dicendo che hai portato sull'antenna, che cosa, lo sai che non ho, sono passato un casino di volte, dovevo sempre aprire al telefono, mi ho incasinato pensando a tutte le varie scadenze da mettere in fila e poi non ho alzato lo sguardo per vedere che è combinato. E niente, adesso ho commutato con 850. Niente. È entrata su un paio di metri, ma è sempre sull'altro lato, capito? Sempre sull'altro lato. Provo a metterla sull'altro strada, ma ci vogliono 40 metri di cavo, non mi conviene. Qua ne ho 3x9, 27, poco più una trentina di metri, dai. Lascio stare lì, l'ho tirata su di un paio di metri e li ho messi tirati che non ce n'erano. E ho guadagnato qualcosa in più, dai. Qualche cosettino, ma niente in particolare. L'apertura c'è, quindi la lascio lì, Marco, almeno tutti nuda. Devo tirare su di polo, quello sì, ma bisogna farlo in due, infatti stavo aspettando a te se venivi a darmi una mano, ho comprato le carrucole e il cavo per tirare su. Però tu sei sempre impegnato. Porca miseria, oh. Mi guarda, posso venire adesso, se saliamo adesso, se hai un po' di whisky o qualcosa, prima, e posso accompagnarti sino all'ultimo piano, poi mi siedo nei gradini, ti aspetto. Antonio Marco chiede tutto, ma non è che salire ad altezze come me, sono vissuto le maniche, no, non ho avuto tempo anche per un periodo di lavoro, molto lavoro anche domani, domenica sono reperibile, c'è nel Pasquetto lavoro, casino, e quindi niente, ho lasciato stare, ho tirato su, solo sull'antenna e basta, e boh. Comunque, adesso vediamo. No, non ho messo a posto anche. sempre un bel amplificatore, quello che ho, che fa solo 10 e 20 metri, 10 e 20, nel buco. Ho messo a posto anche quello, ho messo la valvola nuova, quello c'ha 5L519, 4 più 1, funziona bene anche quello lì, ma non ho tempo di seguire, di fare un periodaccio, oggi peso tutto, speso tutto, manco una sesina mi è rimasta più, ho vestito tutto in questa casa, vabbè, pazienza, però qualcosa già l'ho comprato, dai, almeno ho messo a posto tutto qua, e va bene, ma non sei sotto casa tua? Sono arrivato già da un po', sono con la macchinetta, con la micro machine K, molto bene, e è un momento così, perché è un momento strano, mi sembra un momento di grande felicità, di entusiasmo, la gente è proprio felice, è contenta, non sa cosa fare, al punto tale che si tricura al monte, periodaccio, vabbè. Io qua sono invece in alto mare, ho praticamente gli impianti tutti da rivedere. Meno male che il traliccio 2 funziona, e lì c'ho le HF, cioè i 10 e le bande V e UHF. E l'altro, non so che cosa è successo con l'ultimo vento maledetto, è bloccato dall'altra parte, l'altro traliccetto, quello palo scalinato da 2,5 pollici, 3 pollici, o quanto cavolo è, dove c'è la cubica, è tutto da rivisitare, insomma qua bisogna fare, devo parlare con Monti prima e chiedere la possibilità di fare un'operazione, una nuova variazione alla finanziaria, per un investimento per ripristinare e rimettere in funzione antenne. E poi si vedrà, e chi lo sa. E per non parlare di cavi da sostituire, mamma mia, gasotto, che c'ho da fare, guarda, non fa. È da un po' che non salgo su a controllare, ma bisogna parlare con Monti veramente, con il direttore della. Il direttore della Banca d'Italia e credo che bisognerà aspettare, infatti. Vai Antonè. Ma non senti come chiedere una cosa, ma come si dice, no? Come fanno esperimenti ogni tanto, un sussidio per poter fare delle prove, cose del genere, perché c'è propagazione, manca la propagazione, quindi fai il sussidio dallo Stato, capito? Per fare queste cose qua. Giulia, chiamate bene già, con Monti, per carità, meglio niente, guarda. Di non riprende, no, devo stare attento io, altro che qua tutta la zona del monte sono capace di aver fatto una petizione, devo stare attento e blindare anche fuori tutto, perché che non vengano con le ruspe. Le ruspe non credo, però tutto tornato in buco del culo adesso, hai capito? Se c'è la barca, come fate a comprare tutti quegli apparecchi, quelle antenne? Tutto ti controllo adesso, tutto. Devi dichiarare tutto, anche se fai la visita di 10.000 euro, quella che tu devi dire, vai e ti sbagassi, devi dire, perché devono fare quei soldi? Tutto devi dichiarare, tutto è così. Un casotto. Oh, iaia. Claudio, lo stai scaldando? Col tostapane o che cosa hai messo in funzione? E tu sei sempre lì, attacca, stacca, prendi e metti, accidenti. Oh, iaia. questa malattia di Hertz che t'ha preso pure a te. Boh. No, non ci trova il crescere cercando. Dopo lo sentirà Gennaro. Non ci picchia. Mi ricordo quello trasistorizzato è il 2001, quando avevo la ero già qui a sulla Tirigheddu con la 320, con la Iaggi 320, ma era bassa, però era proprio due metri, neanche due metri, era quasi al filo della falda interna, però non era molto alta, però mi aveva dato da belle soddisfazioni, BDX. E il baracchino che cos'era? Un superstar, quelli cromati, che fra l'altro ho visto che rifanno ancora nuovamente, è eccezionale. Poi quell'altro con frequentimetro, poi quell'altro nero, che non mi ricordo come si chiama, che andava molto bene anche quello. Addirittura in ricezione prendeva meno splatter che con il 430 e con il 440. Quello nero con il frequentimetro, col display verde. Il Pluto, ecco, Galaxy Pluto. Adesso invece c'è la versione Fuffi, il modello Fuffi, quello è eccezionale. Nove cosa lì, quello di Balova. Ma no, faccio 9, sento io, piano chiaro con la direttiva. Sì, lo sento chiaro, lascialo stare chiaro. Sul 9 mi splatteri forte arrivi anche sul 9, però ho sentito anche a Gennaro arriva bene, che in questo ho accumulato, so di sia, arriva bene anche l'altro. Ma la migliorazione di questo cicafuso com'è? È buona qua? Non si beneficia per niente, facciamo il patto di selezione qua. puoi pompare quanto vuoi, manco, non ti senta manco che non è a fianco, lui mi ha detto. È fatta bene l'antenna, l'ho costruita io, è fatta veramente bene. E sono veramente contento. Quindi, vabbè, ho fatto la ritardo l'ultima mattina tutti e due. Sì, la verticale è orizzontale, ho fatto la modifica, però è perfetta. Non si bisticcia niente, no, buon vicinato, a me sta bene così. L'ho fatta e tu non mi senti, io non ti sento, quindi c'è un buon vicinato. Gli altri si sono stati, sono proprio io, come facevo una volta, quando eravamo in questo centro, quindi c'è un aspetto che si riteneva, non mi sarebbe fatto niente. È stato bello, la verità. Non sento nessuno. Sento tutti chiari chiari, basta che la faccio girare, appaccio il palo da un paio di giorni, se uno com'è, metto il palo come si deve, li metto dopo e la faccio girare e sono tranquillo. Ma a te per farla girare, se la tiri sullo stesso palo, però te lo sai, devi fare una gabbietta per il rotore, perché sennò con la leva che fa la via 27 te la tronca, ci vuole, se metti uno di quei rotori piccoli, beh, ovvio che se metti un rotore un 400, una cosa così, un minimo 400, allora ce la fa, ma se metti uno di quei rotori tipo TV o cos'è, o la R, quello, il 250, quello piccolo della Kempro, non ce la fai a montarlo sulle staffe direttamente, a meno che non metti un palo a sé, una con la direttiva da una parte e la verticale dall'altra, perché la leva che fa la verticale è bestiale, guarda, ti tronca le staffe. No, tranquillo, c'è molto della parola, quella della Telesistema, quindi non c'è problema per quello, hai capito? E quindi non mi butto giù niente, non ti preoccupare. E tranquilla, la direttiva pesa poco, non è che sia pesante. Il motore è pesante perché è bello, bello tranquillo, non si muove quello, ma non cosa ti ammazzi. Ma qua poi l'avevi montato tu quel rotore sulla direttiva VHF? Certo che sì, come me lo tutti. Devo collegare il carro, Marco, perché quel periodo scorso stava facendo vento e quindi ho lasciato stare. No, il materino ho già fatto, c'è un materino piccolino da un metro, 80 centimetri, una cosa del genere. Va benissimo, l'ho già provata su, gira che è una meraviglia. L'hai vista, vabbè, sul lato interno, dirà che è una meraviglia, non riesco però a capire, o a dire perlomeno, più che capire, perché a volte mi dico, ma quel ripolo c'è, come si chiama, che ripolo è? Ragno, ripolo ragno, e sono C da C, C da G, ripolo ragno. E da lì con la direttiva VHF schicchi forte, ti togli delle belle soddisfazioni con la Liguria, con la Francia, con la Spagna, perché la posizione è valida per quell'attività, e lì bisogna mettere a 4 poli, era mi pare quel caso, o a 5, non mi ricordo. Investire un pochino di munnera, perché ci vuole un capo di quelli fatti per montaggio in esterno, con sigillati e vabbè, però poi ti dà le belle soddisfazioni, quando hai tempo ci tacchi pure su una per le UHF e hai fatto bingo. Il problema è quello, solo che mi spaventa il costo del capo allucinante. Cioè, solo per la carata ho speso 96 euro più il PL eccetera, 105 euro. Minchia, c'è una cosa allucinante. È allucinante. ignorante, ma lo sapevo che andavo incontro a queste spese per i cavi, perché prima erano piano 10 metri di cavo, 15 metri di cavo, e adesso ce ne vogliono 30, quindi insomma, anche se sono 20 metri in più, però è sempre un costo, è sempre un costo. Vabbè. Comunque, ce la mettiamo tutto a posto. Adesso è un periodaccio, ho sistemato tutta la casa, ho avuto un sacco di spese, di arredamento, di balle, di bolla. Adesso vediamo un po'. Vediamo un po', per me farò un soldo, mettiamo un po' sulle antenne, così terminiamo tutto, visto che le orarie ci sono. Adesso ho fatto sta spesa l'amplificatore, dove si vedrà, si vedrà. Sto cercando il 471, ma non riesco a trovarlo, perché c'è il 271. Tra l'altro ho anche l'amplificatore della BIAS per le VU, e quindi se trovo il 471, siccome c'è la potenza regolabile, li metto tutte e due a 10 watt e va fuori con più di 100, tutte e due, in abbinata, tutte e due proprio voi, tutte e due assieme, solo che non lo trovo, sto cercando tutti i giorni a Rifidenza, a qui, a Rilano, a Mercatini, Valle Guari e Bei, ma non riesco a trovarlo. Tu non l'hai, non lo sai chi ce l'ha, no? 471. No, però ricordo di averlo visto tempo fa, ma già si trova, vedrà che prima o poi già viene fuori qualcuno che lo mette in vendita. Già si trova, e così completi, fai il gemello e si è a posto. E beh, così bisogna aspettare il momento giusto, come viene fuori, fulminarlo. Magari lasciarlo detto anche a quei mufloni dei soliti negozi che sai, se capita dammi uno squillo, tanto in un momento così come questo, figurati, non sono tutti a me a meno, perciò se c'è un cliente interessato che già te lo prenota o ti dice guarda che, magari loro sanno che c'è qualcuno che ce l'ha a casa e che magari è andato lì, ha cercato di versarglielo, non lo hanno preso indietro, perché in un momento così lo sai, no? Le apparecchiature nuove devono pagarle a vista e non possono prendere indietro roba usata, perché diventa pesante, soprattutto in un momento così dove già di merce magari ne ho già abbastanza ferma lì sugli scaffali. E allora magari possono darti qualche dritta, capito? Fai affare tu e lo fanno anche loro. Loro perché riescono a vendere un nuovo e tu perché riesci a prendere indietro quello che serve a te, capito? E il cavo quello lì costa un sacco di soldi, anche perché la calata è lunga e ci vuole cavo serio, claro, no? Ci vuole cavo con... fatto bene, che deve durare negli anni, no? Che puoi stare lì costantemente a metterci mano. E così, va bene, l'antenna allora a Antonello. Sì, io ripeto, mi passo in corretti, ci sono venuti domani se rientri, la baracchina, sia uno sia l'altro, no, fatemi bene per il momento, buon proseguimento, alle prossime mine, buonanotte a tutti e due. Ciao Antonio, buonanotte e buona Pasqua, se non ci sentiamo domani, tanti auguri, buona Pasqua a te in famiglia. Va benissimo, non sembra neanche che sei attaccato. Beh, l'abbinamento già lo sai, mi viene di questi FF, con amplificatore professionale, non te ne accorgi, no. Non te ne accorgi, no. Se tiri questa potenza, io ho esattamente proprio, tiri, sono 100 watt d'ingresso, sono amplificato. in fibrillazione, quando vede segnaloni si preoccupa. Sì, sì. Se Monti mi lascia un po', che mi rimane un po' di tempo, vedi qua la macchina con le zanne allargate e il cestello salendo, piattando quel mostro che c'ho, porca miseria, ce la devo fare prima o poi, quel mostro quattro elementi, cubica, cinque bande, 12 metri di boom, vedi? Vedi che risa facciamo dopo. Io c'è Antonio, adesso mi ha ricordato, Antonio sta trapanando staff, mettendo lì, la guerra del condominio, la guerra del condominio, direttivo, dice che sta mettendo il direttivo VHF, tra i ceti, non so di tutto, sta piazzando, lo leggiamo sul giornale in questi giorni. Vabbè, lui è perché è basso. Insomma lui lì è un po' così, io non ho problemi, io non lo faccio di nessuno, capito? Il problema è che se avessi veramente voluto investire già da diverso tempo, è monto un'antenna qua 10, 15, 20, col kit dei 40, con l'amplificatore che ho adesso, sono dolori forti, che anche lui non viene a vero. Mi guai, una di quelle di Enzo, una ultra beam, una 320, anche bassa, senza andare tanto su, così dormi sogni tranquilli, un bel palo da 3 pollici, uno di quei rotori di Giovannini, e dormi sogni tranquilli, tutta in fibra di vetro, non c'è niente, può fare il vento a 150 km orari, staffe, tasselli chimici con un mega staff in acciaio senza pietà, ultra, e vedi come suona lì la canzone. Sono investimenti che farò più avanti a vecchiaia sicuramente, adesso non la sento, troppi denari voi, troppi, piano Marco, lo sai, la mia avventura, quindi ho fatto un investimento allucinante, ci ho perso ma non ho investito e quindi allo stesso tempo ci ho anche guadagnato e perciò sto adesso con i piedi per terra piano, adesso ho preso già diverse radio, un sacco di radio, intanto il posto che è quello che mi serviva per fare la mia attività vera e propria, cioè per starmene tranquillo senza disturbare nessuno, e ancora questa stanza non è finita perché come va via questo armadio faccio l'altra base in modo che ho lo spazio per potermi fare qualche lavoretto, qualche cosa, capito? E per il momento è tutto radio, le basi sono tutte occupate. Ho tirato fuori tutte quelle cose che c'erano dentro gli armadi, eccetera, perciò ho impegnato tutto. Ma più avanti sicuramente qualche altro spicciolo lo investirò. È stato un momento dove lo sai, siamo rimasti un bel po' senza quattrini, poi sono arrivati tutti assieme, quindi quando inizi a dividere non è che ne avanzano molti. E allora adesso ho ripreso il tran tran, piano piano stiamo comprando di nuovo, però mi vuole un bel denaro, troppi soldi, minchia. Cioè, mi ha mandato Antonio da Melchioni a comprare, perché stanno costruendo la Camille, cioè 2,60 al metro, ma come si fa? I prezzi sono pazzeschi, Cattaniglie sono 5.200 lire, delle vecchie lire al metro, che è un bel dino. È così, sfortunatamente sfortunatamente i preti sono saliti alle stelle, mie spese per la famiglia altrettanto, e poi quello che rimane è sempre niente. E vabbè, io lo stesso, i lavori qui da fare, poi manutenzione pazzesca, che non ci vogliono soldi, cioè, ci vuole un fotocopiatore qua, come metti in mano connettori, cose varie eccetera, è scioccante. E vabbè, piano piano, finché vanno le cose, si usano quelle che si hanno, e poi se non si aspetta, quando si ha il tempo, si fa quello che c'è da fare. E comunque lì ti è venuto un bello shock, si è organizzato bene, anzi forse quella è al momento la situazione migliore che hai avuto, diciamocelo francamente. Beh, lo sai, in tutto ciò ci ho guadagnato, nel senso che ho cambiato sì casa, però mi è rimasto la posizione, in più ci ho guadagnato il fatto che c'è una stanza in più, che quindi è nata proprio la mia vera passione, dove sto sempre qua, adesso c'ho tutto, c'ho TV, c'ho tutto, capito? Quindi una volta che sto qua dentro non ho problemi di niente, prima ero sempre a mezzo ai piedi, spegni la radio, mi stai ritornando qui e là, invece adesso vedi, tutti andando, io qua, sì, non posso stare sino a domani mattina, non me ne frega niente, capito? E quindi va bene così, adesso il prossimo investimento è qualcosa in più di antenne, qualche radio in più, sono detto, sto cercando 471, adesso spargo la voce un attimino su un continente, vedo un po' se me la trovano, così faccio la copiata, c'ho un amplificatore anche lì, e quindi parlo con la massima potenza, le antenne ce le ho, c'ho tutto, ho preso anche un 780, quello che aveva Vannino, molto bello, anche quello però è in QRP, c'ha addirittura quello c'ha 10 watt, sia in V che in U, con le bande laterali in base, tutto bellissimo. Quindi sto usando quello perché c'è l'amplificatore attaccato, capito? E quindi mi consente di fare tutto, sia V che U, tutto con una radio, c'è l'MC50 anziché l'MC60, però esce molto bene perché c'ho un mic regolabile e tutto, quindi va bene, radio ne ho e va bene così. Adesso cerco di fare fuori di versare, appena ho due righe disponibili da aggiungere il coso 440 e prendo un'altra KF, insomma, e poi ce li ho, c'ho 950, c'ho 850, un'altra KF di stazza superiore a quello, tanto il 440 ormai è passato, però la 27 mi tengo il 140, c'ho la linea completa, quindi usa meno a futti, e vediamo un po' di andare avanti, e si vedrà, ok, ci andiamo a andare magari l'1 meno 10, se no domani mi canta lo buco, tu dove sia Sassari, domani. Sì, domani, io stasera ho lavorato sino alle 8 e poi chiuso ufficio e adesso se ne riparla a martedì. Va bene, tre apparecchiature ne hai, insomma ti prendi, come hai detto, magari ti metti un monitor, uno col monitor, un 756, un Pro 2, un Pro 3, una cosa così, e sei a posto anche perché con l'analizzatore Spectre è bello, cioè puoi giocare, fare, anche nella banda cittadina, no? Vedi chi c'è, chi non c'è, se ti spostati eccetera, vedi lì sull'analizzatore dove c'è traffico, ma va bene, carie, ti saluto, dai, anch'io sono trattenuto qua volentieri a fare due chiacchiere, adesso spengo tutto e me ne vado a nanna. Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte anche gli SWLF che sono rimasti qui in ascolto. Marco Scorpio, no, qui parte alta della città, monte parte alta, l'uomo del monte, QRT. Ciao, ciao Tower, torre di controllo. Ciao, tanti auguri. Ci sentiamo domani, buona Pasqua, un saluto, un bacio lì a casa a tutti. Ciao Marco, contro cambio anche a te, già ci sentiamo domani, non c'è problema. Da una parte o dall'altra già siamo sempre in attività noi, se non ti faccio un colpo di citofono. Oramai c'è la scheda sempre carica, capito? Il riccio è morto, è caduto dalla tasca e si è fatto a pezzi, quindi ti posso chiamare. Ciao, dai, buonanotte, grazie alle due chiacchiere e ci sentiamo. Saluto anch'io a tutti gli esseri doppio dell'ascolto. Ciao Marco, di buonanotte. Va bene, ciao ciao, buonanotte. Ma per io le c'era il riccio, ti dico. Quando c'era il riccio sempre, ho detto ma quanto che tanto e poi niente, ho detto che così, il riccio in tasca, come fino a mano subito, oia mamma mia, lasci saltare, non toccare. Dai, va bene, se sono in movimento, tanto io lo sai, quando sono in movimento accendo, magari se domani mattina esco e siamo in orario giusto, tanto qua lo sai, passo sempre a salutare, a fare due chiacchiere, magari ci prendiamo un caffè e ci troviamo un aperitivo. Dai, va bene, ciao ciao, buonanotte. Ciao Marco, buonanotte, dai. Va bene, tanto già rientro presto.